Buongiorno a tutti, domani c'è naturalmente le due lezioni di recupero su Flaubert, dalle 13 alle 15 nell'aula 29. L'aula in cui prima si tenevano delle lezioni di storia, poi c'è stato questo spostamento. Allora, quindi inizia questa relazione tra Rosanette e Frédéric, e penso che, come vi stavo accennando l'altro giorno, la cosa più interessante è questo voler persuadersi, che Flaubert mette in evidenza, che le cose della nostra relazione vadano bene, questo voler persuadersi, insomma, questa dimensione mette in evidenza volontaristica dell'amore, per cui tu vuoi credere al fatto che sei innamorato. Chiacchierano e allora lui comincia a chiedere: ma come hai conosciuto Agnù? Chiede lui a Rosanette, e Rosanette gli risponde: l'ho conosciuto attraverso la Vatnas. Purtroppo non ho potuto parlarvi di Mademoiselle Vatnas, che è una zitella terribile, spaventevole, che Rosanetta di volta in volta dice che è sua amica oppure sua nemica, eccetera. Comunque, Arnaud l'ha conosciuto attraverso la Vatnas, e lui dice che Arnaud sostanzialmente è pessimo, è un omaccio, dice Frédéric, e lei risponde: ma non dovresti essere così duro nei confronti della tua vittima? Come vittima? Dice: sì, perché tu li hai soffiato la moglie. E questa è la cosa, l'accusa più incredibile: ma come soffiato la moglie? Ma io mi sono fatto un fegato marcio per tutto questo, di venire a dire che io ho soffiato la moglie. E allora investigano un po' sul loro passato, e siamo arrivati al capitoletto che dobbiamo considerare, che è 1-2 pagine, 3/3 pagina credo, dopo il numero 30. Inizia con: Frédéric jura sa parole d'honneur. Ci siamo? Che pagina è? Frédéric jura sa parole d'honneur. Flaubert, l'éducation sentimentale, siamo nell'Università di Roma, Tor Vergata. No, che la volevo... Italia, dica. Il capitoletto 30, il titolo? Questo comunque è... il nuovo, il 31. Ah, dell'altro. Con Rosanette a Fontainebleau. Questo è il titolo del 30. Con Rosanette a Fontainebleau. Titolo del 31 che stiamo adesso considerando è Il silenzio in una coppia. E inizia con quelle parole: Frédéric jura sa parole d'onore. Volete dire ad alta voce qual è la vostra pagina? 60, 360. Allora, Frédéric diede la sua parola d'onore, che non aveva mai pensato a Madame Arnoux. Era troppo, perché era molto imbarazzante, dover dire come stavano le cose, insomma. Era troppo innamorato di un'altra. Di chi allora? Ma di voi, bellezza. Ti prendi gioco di me, mi fai arrabbiare. E gli giudicò prudente inventare una storia, una passione. Trovò dei dettagli circostanziati. Quella persona, del resto, l'aveva reso molto infelice. Decisamente non hai fortuna, disse Rosanetta. Forse, volendo far capire in questo modo parecchie buone fortune che aveva avuto, per darle una migliore opinione di sé, allo stesso modo che Rosanette non confessava tutti i suoi amanti perché lui la stimasse di più. Infatti, in mezzo alle confidenze più intime, ci sono sempre delle restrizioni per pudore, delicatezza, pietà. Si scoprono nell'altro o in se stesso dei precipizi o delle colate di fango che che impediscono di proseguire. Si sente d'altronde che non si sarebbe capiti. È difficile esprimere esattamente che sia. Così, le unioni complete sono rare. La povera marescialla non ne aveva mai avute di migliori. Spesso, quando considerava Frédéric, delle lacrime gli spuntavano alle palpebre e poi alzava gli occhi e li volgeva verso l'orizzonte, come se avesse scorto qualche grande aurora e prospettive di felicità senza limiti. Un giorno confessò che augurava di far dire una messa perché questo portasse fortuna, perché questo porti fortuna al nostro amore. Come mai ella gli aveva resistito per così lungo tempo? Non lo sapeva lei stesso. E lui ripeté parecchie volte la domanda e lei rispondeva, stringendolo fra le braccia, è che avevo troppo paura, è che avevo paura di amarti troppo, mio caro. Come si fa a raccontare alla persona con cui tu hai una relazione come stanno veramente le cose della tua vita? Perché l'aspetto interessante è proprio questo, che quando noi incontriamo una persona, se siamo molto giovani, abbiamo poco da raccontare, perché se si incontra una persona che sia 15-18 anni, è l'infanzia che si ha da raccontare. Sono pochi anni che abbiamo vissuto, ma se la si incontra più avanti, e si sono avuti compagni, amanti, lutti, si sono fatte cose terribili. Come si racconta tutto questo? Questo è il punto. Non lo si racconta. In realtà c'è un atteggiamento, dice Flaubert, doppio, nei confronti, lo mostra in seguito, del passato della persona con cui stiamo insieme. Da una parte una curiosità istintiva, vorace, vorremmo sapere chi era il primo uomo della donna che amiamo, chi è stato, che cosa avevano fatto insieme. Dall'altra parte tutto questo ci fa paura. Per cui, se per caso ci imbattiamo in lettere che testimonino presenze di persone nella vita, e beh, insomma, sta un po' all'abilità del partner di cercare di diminuire, di togliere importanza, di dire quella era solo una cosa giovanile, di non mostrare che erano appassionatissimi l'un l'altro, lei è il precedente. E quindi uno sostanzialmente, dice Flaubert, si muove in punta di piedi e non vuol sapere. Una delle caratteristiche degli amanti è che non vogliono sapere tutto. Io non lo so se vi siate, adesso c'è da qualche anno, parecchi anni ormai in Italia, adesso tutti ce l'hanno, il telefonino, i messaggini, gli sms, le mail, eccetera. Ecco, naturalmente è considerato dal punto di vista penale, pare giustamente, una violazione della privacy se uno va a vedere la posta sul computer di un'altra persona. La Cassazione ha condannato recentemente un marito geloso che guardava la posta della moglie. Ma lasciamo stare questo, che proprio ci vuole del dolo per andare a vedere la posta di un'altra persona. Ma un sms, se voi vedete il telefonino della persona per stare a attualizzare le cose, della persona amata, che ha ricevuto un messaggio, peggio, se sentite che la persona amata che sta con voi riceve il segno di un messaggio e poi non vi dice nulla sul messaggio, voi avreste curiosità di dire ma chi è che ti ha scritto, no? E però è anche un senso di dignità e di orgoglio che vi impedisce di chiederlo, non so se la situazione vi riusciate a capire, ma mettiamo che la persona abbia lasciato lì sul tavolo il telefonino aperto e mettiamo che ci sia un nome a voi completamente sconosciuto, comparso questo nome sconosciuto di una persona di cui non vi ha mai parlato, vi potreste trattenere dalla tentazione di dire ma chi è questa persona? È molto difficile naturalmente trattenersi. È molto difficile, ma quanta è la confidenza che una coppia si può permettere? In realtà quasi nessuna. Noi viviamo camminando sulle uova, camminando in punta dei piedi, e più si va avanti e si ha una vita strutturata alle spalle, pensate alle persone che hanno un secondo matrimonio, un terzo matrimonio, più c'è questa difficoltà nel muoversi, con alcune differenze tra l'uomo e la donna. E lui naturalmente dice, ma perché, parlando dice che era troppo innamorato di un'altra, ecco, allora ma chi è quest'altra di cui eravate innamorato? Dice, ma siete di voi che ero innamorato, naturalmente nessuna donna è così stupida, anche se sia accecata, credo, le cose di questo genere qua. Chi stai guardando? Chiede la moglie al marito. Nel tuo spirito, in questo momento, con aria sognante, ah, stavo pensando a te. Difficile che una moglie creda a una cosa del genere, insomma, no? E d'altra parte c'è una verità in un rapporto, ma la verità deve essere tutelata. Quello che viene fuori da queste pagine è proprio questo segreto a cui uno, uomo o donna, è dannato. Ecco, non si può pensare, una delle più grandi sciocchezze della tradizione cattolica, diciamo così, insomma, saranno un corpo e un'anima sola. Non so se ci avete mai riflettuto le cose stesse che si dicono in quell'assurdo rito che è il matrimonio, insomma, è brutto quello civile, quello religioso è grottesco, insomma, entrambi sono brutti. E saranno un corpo e un'anima sola, come un corpo e un'anima sola. Ma io vorrei che la persona con cui stessi insieme non avesse il mio corpo, che fosse molto meglio del mio, insomma, sostanzialmente. Quanto all'anima, ma come si fa a vendere la propria anima? Come si fa a pensare a un rapporto con un'altra anima? Il segreto ripeto questo concetto, il camminare in punta di piedi. Ecco, e da un certo momento in poi, ecco, direi proprio questo, mi sta venendo in mente, che in tutto nella vita si comincia, a un certo punto si cammina in punta di piedi. Il bambino non cammina in punta di piedi. Il bambino cammina, corre, libero, no? Libero e giocondo. E poi pian piano comincia ad avere qualcuno che tu ami o che ti ama, e allora comincia a camminare in punta di piedi. Poi comincia a invecchiare e alla fine tutti i vecchi, prima della catastrofe finale, dell'imbecillimento, camminano quasi non camminando. Perché? Vi siete mai chiesti come mai i vecchi non camminano? Mi sta venendo questa immagine fantastica in mente, che prendete naturalmente nel suo valore barocco. Ma tutti questi vecchi che camminano lentamente, camminano in punta di piedi perché non vogliono scoprire niente. Quelli che hanno il bastone, no? E perché non sanno dove muovere? Perché i vecchi sono così gentili a volte? No? E perché cercano di ingraziarsi il giovane, no? Perché sanno che dovranno vivere come sanguisughe finché crepano alle spalle dei giovani. È un grande problema questo del silenzio in una coppia. E poi una donna può dire gli amanti che ha avuto. Io ho conosciuto solo uno, mi ricordo, che aveva cercato, per essere carina nei miei confronti, di dirmi che aveva avuto 30, l'ho raccontato in tutte le lezioni, non ho mai detto chi era veramente, che aveva avuto 30 uomini nel mese d'agosto. Questo fu un fatto clamoroso della mia esistenza. 30 uomini, io ho pensato, ma come faceva quindi? Perché, insomma, se il 14° giorno avesse voluto copulare con quello del terzo giorno, non poteva, perché il 14 si era già occupato, evidentemente. Poi, calcolando il ciclo, avevo fatto tutta una serie di calcoli, diventava anche una cosa imbarazzante, a meno che non avesse un ciclo. No, vabbè, era impensabile, ed era un tour de force, perché ogni volta era uno diverso. Lei credeva di essere, povera donna, e credeva di essere interessante, quindi non aveva capito quello che la Rosaletta ha capito benissimo. Che, dice qua Flaubert, che le donne non possono vantare le loro conquiste sentimentali, più di tanto. E gli uomini sì, perché sennò sembrano gnocchi, perché sennò sembrano sciocchi. E quindi Frédéric, quando gli dice, io ho avuto, dice, lei dice, ma tu non hai proprio sfiga, dice lei. E dice, beh, insomma, mica tanto, perché insomma, se un uomo comincia a dire sì, mia cara, sono vergine. Allora le sue quotazioni scendono moltissimo. Dice, come vergine a questa età? Ma Madonna, ma come mai? Non ti ha preso nessuno? Hai qualche difetto segreto? E invece uno così, insomma, dice, no, come è andata bene, abbastanza, scivola. Ma la donna non può, la donna non può. Ma al di di là di questo fatto uomini e donne quel che possono, la cosa importante è l'argomento della confidenza. Dice Flaubert questo: a volte uno non parla, sentite questa bellissima espressione, perché vede nell'altro o in se stesso, guardate questa espressione, segnatevela, dei precipizi o dei fanghi. Dei precipizi o dei fanghi. Vediamo, siamo persone normali, no? Ma se uno fuga nel proprio passato, mi seguite? E se avessi avuto qualche episodio di pedofilia? Forse allora non si chiamava così. Se avesse detto, lasciando stare il sesso, qualcosa di malvagio a una persona. Non so se vi ho citato un episodio splendido di un sommo, tra i sommi naturalmente romanzieri, con cui ora sono abbastanza in disaccordo per motivi miei personali, è uno dei più grandi romanzieri di ogni tempo, si chiama Fyodor Dostoevskij. Nell'Idiota, sommo libro, che lessi quando avevo 13 anni, mi ricordo, a un certo punto c'è un gioco di società. Ve ne ho parlato mai di questo? Il gioco di società consiste in questo. Tendo sempre l'arrivo dei pazzi. Il gioco di società consiste in questo. Dobbiamo raccontare l'azione più cattiva che abbiamo compiuto. È fermo, cioè terribile, eh? E uno la racconta. La raccontano tutti. E uno dice, ero un soldato. Mi sono avvicinato a una casupola dove c'era una signora anziana. E questa signora è stata oggetto di tutto il riversarsi del mio odio, della mia furia per la guerra in cui mi trovavo, e la signora non capiva perché ce l'avessi con lei, ed era una donna intelligente, quindi che poteva particolarmente comprendere il male che le facevo, e io me ne andai. E poi fui indotto a tornare. Ma quando tornai, vidi che lei era morta. Questi sono omicidi che sono avvenuti e che non hanno incontrato la fucilazione, la forca. Quante volte abbiamo detto, forse poche volte, ma quelle volte basta che avanza. Voi guardate, ho detto qualcosa di cattivo per ferire una persona. Ci sono naturalmente dei professionisti della cattiveria, ma le cose cattive, il rimorso è stato inventato per questo, insomma. A volte noi la cosa cattiva la diciamo perché non possiamo trattenerci e quindi ci diamo una sorta di giustificazione in questo senso, ma l'altra persona non ha capito che non potevamo trattenerci, ha semplicemente sentito il colpo che abbiamo inferto. Quindi ci si muove tra precipizi e fanghi. Precipizi e fanghi. Ho abusato di qualcuno? E quindi bisogna stare attenti a esprimersi. Ecco perché dice le unioni complete sono così rare. La povera marescialla. Vi faccio presente queste due bellissime parole insieme, perché la marescialla, no? Che poi sapete quando la chiamate marescialla, però è povera, perché è una povera donna. Come, non so se lo dirà dopo, insomma, comunque la marescialla è una storia di una che è stata avviata alla prostituzione dalla mamma, perché erano poveri, una storia più comune del mondo, insomma, no? E racconta la cosa netta, dice che c'era un signore di età che gli aveva detto, vieni qui, e lei era rimasta attratta dalla bellezza dell'ambiente, e però non aveva capito quello che succedeva, e poi da allora, dopo di allora, è stato tutto un precipizio, insomma. Ed è una meravigliosa descrizione, ne ho conosciuto di prostitute io, e insomma e sono spesso impressionantemente simili nella loro storia, in quello che sono diventate. Non aveva mai conosciuto una storia come questa, con uno così puro come Frédéric, così puro. E a un certo momento sentite questa cosa come penosa anche. un certo momento vedeva davanti a sé come un orizzonte, una grande aurora, no? In fondo nell'amore che cos'è che ci fa star bene? È la promessa del futuro. Oltre che il presente, è la promessa del futuro. Questa persona ci starà. Io non sono più solo. Nessun amore farebbe star bene se noi avessimo la sensazione che è puntificato, che è adesso e poi finisce. Sarebbe una sofferenza incredibile. Invece è una promessa. L'amore è una promessa di felicità. Non è solo felicità presente, soprattutto è promessa di felicità. Faremo un viaggio insieme. Andremo a mangiare fuori, a fare un picnic, un déjeuner sur l'herbe. Piccoli progetti, futuri. E quindi lei è felicissima. E che cosa fa? Fa quello che le persone semplici fanno, va in chiesa e fa dire una messa. Sapete questo rito del far dire una messa? Cioè come per quando uno fa dire una messa per una persona scomparsa, la quale viene dal prete ricordata fuggevolmente. Però bisogna sganciare, bisogna pagare perché venga ricordata l'anima del defunto, in una parola, biascicata dal prete, avendo avuto in cambio l'offerta. Non c'è qualcosa di osceno in tutto questo? Perché un nome venga biascicato dal prete e uno deve pagare per questo, una cosa mostruosa. E questa anima semplice fa dire una messa perché, sapete, come si va nei santuari, no? Nei santuari per fare si accendono le candele, no? Si accendono le candele per far sì che Dio, la provvidenza, aiuti la tua storia. E allora lui le chiede, ma perché ci hai messo tanto a darmela? E la risposta è bellissima, perché nel nostro agire ci sono, è questo genio che Flaubert, ci sono delle inconsapevolezze, la risposta che dà Rosalmente è mirabile, non lo sa. Ma molte cose nella nostra vita non le sappiamo. Perché hai fatto questo? Perché non l'hai fatto? No? Di fronte ai possibili giudici istruttori che ci sono davanti, ma perché lei ha fatto questo? Ma perché? Non lo so perché l'ho fatto, non lo so, non lo so. È passato il tal giorno, per dire una cosa molto semplice, a quel se, a quell'incrocio, è passato con il rosso. Perché è passato con il rosso? Non lo so, non lo so, non l'ho visto, non me ne sono reso conto. Ha investito una persona, perché non si è fermato? In molti casi vale la buona fede, non lo so. E a parte il punta di piedi, quel concetto che vi dicevo, che poi invade la nostra vita, questa risposta, vorrei che rifletteste sull'intensità di questa risposta non lo so. A tutte le domande che ci vengono fatte sulla nostra vita, è una risposta di, mi sembra, struggente verità, perché non sappiamo perché hai perso due sessioni senza dare un esame. A volte si risponde, non lo so, è andata così. Non mi sentivo, avevo paura, non sono stato bene, insomma. E quindi uno continuamente dovrebbe dare, in teoria, giustificazioni di quello che fa, non lo so. Andiamo oltre, e alla fine lei dice una risposta scema. Non hai acconsentito a me prima? Chiede lui. E lei prima dice balbetta qualcosa che non sapeva, e poi dice, sai, avevo paura di amarti troppo. Sono risposte gentili che dà una cortigiana, che dà una persona. Ma c'è anche forse un fondo di verità, chi lo sa? Perché quando una persona effettivamente ha la sensazione di imbarcarsi in una storia più importante di quello che possono sopportare le sue spalle, allora si rifiuta, si rifiuta. Ci sono persone che senza sapere, vorrei dire che senza saperlo hanno paura di dire la verità. Ci sono persone che per esempio si dichiarano, capita spesso, in anonimato, con lettere, perché hanno paura di mostrarsi. Andiamo oltre. Il capitolo successivo, 1, 2, 3, 4, e siamo al secondo capitolo qua. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Quindi siamo, è facile, dopo il terzo capitolo inizia il capoverso Enfin, subito alla seconda pagina, dopo il terzo capitolo, inizia il capoverso che dice così: Enfin, il monta l'escalier, Arnaud y a-t-il 186? 386. E allora qui siamo in un posto, in un punto bellissimo. I due si rivedono. E qual è la condizione a cui è a questo punto, a cui sono i due possibili amanti, li chiameremo possibili amanti? È di stanchezza, troppi equivoci ci sono stati. Madame Arnoux che diventa gelosa di Rosanet, giustamente, perché poi ha dei motivi per essere. Vede che lui non fa dei passi in avanti, lei non li fa, non vuole nemmeno concepirli. È questo equivoco di fondo che poi governa la nostra vita. E lui va in casa di Arnoux, come tante altre volte, ma è tanto che non si vede. È tanto che non si vede. E dal non vedersi, l'amore subisce delle trasformazioni, nel senso che può anche accentuarsi, ma si può anche stingere, sbiadirsi. I rapporti che si riprendono dopo tanto tempo non è come se il tempo fosse passato vanamente, il tempo ha tolto. Infine lui salì le scale. C'è Arnoux? E la cameriera rispose: no, ma entrate lo stesso. E aprendo bruscamente una porta: signora, c'è il signor Moreau. Lei si alzò più pallida del suo collettino e tremava, perché debbo l'onore di una visita così imprevista? Niente, il piacere di rivedere vecchi amici. E sedendosi: come sta il nostro buon Arnoux? Benissimo. È uscito. Ah, capisco. Sempre le sue vecchie abitudini serali. Un po' di distrazione. Perché no? Dopo una giornata di calcoli, la testa ha bisogno di riposarsi. E lamentò, anzi, suo marito come un lavoratore. Quell'elogio irritava Frederick. E, indicando sulle ginocchia di lei un pezzo di stoffa nera con dei passamani bianchi, blu, e che cosa state facendo? È un vestito che sto aggiustando per mia figlia. A proposito, non la vedo, dove è? In un collegio, rimprose Madame Arnoux. Delle lacrime gli spuntarono agli occhi. Le tratteneva e passava l'ago rapidamente. Lui aveva preso per darsi un contegno un numero dell'illustrazione sul tavolo vicino a lei. Queste caricature di Jean sono ben strane, non è vero? Sì. Poi ricaddero nel silenzio. E un soffio di vento tutto a un tratto colpì i vetri. Che tempo, disse Frederick. Sì, difatti, è bello essere venuto, è bello da parte vostra essere venuto con questa orribile pioggia. Oh, io me ne infischio. Io non sono come quelli che sono impediti, probabilmente, di arrivare ai loro appuntamenti, vi ricordate? Quale appuntamento? Ella domandò ingenuamente. Non vi ricordate? Un brivido la percorse e abbassò la testa. Lui posò dolcemente la mano sul braccio. Vi assicuro che mi avete fatto soffrire molto. Ella riprese con una sorta di lamento nella voce. Ma avevo paura per il mio bambino. E gli raccontò la malattia del piccolo Eugenio e tutte le angosce di quella giornata. Spasso alle corse, i cavalli. La donna di cui avete il ritratto, la vostra amante. Ebbene sì, gridò Frederick. Non nego niente. Sono un miserabile. Se l'aveva avuta, era per disperazione. Come ci si suicida. Del resto l'aveva resa molto infelice, per vendicarsi su di lei della sua propria vergogna. Che supplizio, non capite? Madame Arnoux volse il suo bel viso tendendogli la mano, chiusero gli occhi, assorti in quell'ebbrezza che era come per loro un collare dolce e infinito, e poi restarono a contemplarsi. Di fronte, non in faccia all'altra. Ma voi potevate credere che io non vi amassi più? E lei rispose con voce bassa, piena di carezze. No. A dispetto di tutto, io sentivo in fondo al mio cuore che questo era impossibile e che un giorno l'ostacolo fra noi sarebbe caduto. Avevo bisogno di rivedervi da morire. Una volta, ella riprese, al Palais Royal, sono passata vicino a voi. Davvero? E gli disse la felicità che aveva avuto ritrovandola a casa dei D'Ambrosio. Ma come vi detestavo quella sera uscendo di là? Disse Madame Arnoux. Uscirono. Lei si chinò sulla rampa delle scale per vedervi ancora, e un riso acuto, lacerante, cadde su di essi dall'alto delle scale. Frédéric spinse Cosanette nella carrozza, si mise di faccia a lei e per tutto il viaggio non pronunciò una sola parola. L'infamia, il cui riflesso lo oltraggiava, era lui stesso che ne era la causa. Provava insieme la vergogna di un'umiliazione schiacciante e il rimpianto della sua stessa felicità. Quando stava finalmente per prenderla, ella era divenuta irrevocabilmente impossibile. E per colpa di quella là, di quella donna, di quella puttana, avrebbe voluto strangolarla, soffocarla. Rientrati a casa loro, gettò il suo cappello su un mobile e si strappò la cravatta. Ah, hai fatto qualcosa di veramente pulito? Confessalo! Lei si piantò fieramente davanti a lui. Ebbene, che c'è? La spia. È colpa mia. Perché vai a divertirti con le donne oneste? Non importa, non voglio che tu le insulti. E in che cosa l'ho insultata? Lei non rispose nulla e con accento più pieno di odio. Ma l'altra volta al campo di Marte, ah, tu ci scocci con le tue antiche amanti. Miserabile! Alzò il pugno. Non uccidermi! Sono incinta. Frederick indietreggiò. Tu menti! Ma guardami! Lei prese un candeliere e mostrando il suo viso. Te ne intendi? Piccole macchie gialle che erano cosparse sulla sua pelle, che era singolarmente gonfia. Frédéric non negò l'evidenza. Andò ad aprire la finestra, fece qualche passo in lungo e in largo e poi s'accasciò in una poltrona. Direi a questo punto di sospendere e continuiamo domani.